Purtroppo abbiamo assistito a questa scena indecorosa dove alcuni lavoratori del gruppo Faro che lavorano per la logistica di Zara, che da tempo hanno una vertenza nei confronti dell'azienda, della cooperativa Faro, sono stati aggrediti e malmenati da persone non ben identificabili e comunque rispondono, diciamo, all'azienda da quello che c'è, che risulta. Abbiamo letto sui giornali comunque che c'è stato l'uso del taser e che queste persone che hanno aggredito gli operai facevano parte della società di sicurezza privata dell'azienda. Risulta anche a noi, sì. Questi personaggi hanno aggredito i lavoratori che stavano lì rivendicando un loro giusto diritto, perché là parliamo di rivendicazioni di natura contrattuale, perché l'azienda è da tempo, noi siamo in vertenza nei loro confronti, da giorni c'era lo sciopero di questi addetti e ieri mattina sono stati aggrediti in maniera pesante da questi personaggi. Chiaramente questa cosa ha innescato tutta una serie poi di azioni e attualmente, proprio pochi minuti fa, stiamo parlando con questi lavoratori che chiaramente vogliono fare una denuncia penale nei confronti di coloro che l'hanno aggrediti, e quindi noi come organizzazione sindacale metteremo a disposizione un avvocato penalista per andare avanti anche sulla denuncia penale, insomma, al di là del conflitto sindacale, quello continua a prescindere. Ci risulta anche che tra l'altro l'azienda si sia presentata a voi come sindacato a un incontro con la presenza di questa sicurezza privata, in un incontro che è stato definito surreale, giusto? Sì, purtroppo diciamo la verità che in questo mondo qua è un mondo abbastanza surreale, nel senso il mondo degli appalti, della logistica gestita da queste cooperative un po' strane, è un sistema proprio che andrebbe cambiato radicalmente, perché là c'è un tema profondo che in questa fase qua è guido ancora di più, per cui questa committenza e appaltatore si chiedono tutta una serie di flessibilità estreme che poi portano chiaramente a far sì che la parte più debole, che è il lavoratore, è quello che viene privato spesso anche delle retribuzioni, nonché dei diritti. Quindi diciamo che là bisognerebbe intervenire forse in maniera un po' più di sistema su questi mondi qua. E quando ci troviamo in queste situazioni, come nella fattispecie, spesso appunto sono dei ruoli di lavoro particolari, definiamoli così. Poi tra l'altro l'uso del taser nella repressione di rivendicazioni sindacali è la prima volta che lo vediamo in Italia e si potrebbe ascrivere, diciamo, a un innalzamento del clima di tensione che andrà anche forse peggiorando con la legge sulla legittima difesa, comunque diciamo un clima di giustizia privata. Sì, cioè questo elemento regressivo che ormai chiaramente sta facendo proseliti all'interno della nostra società, quindi si passa da un'idea appunto di giustizia privata che, se dovesse veramente determinare poi i comportamenti conseguenti, insomma arriveremo al far west. Questo è un altro elemento. Poi nel mondo del lavoro, soprattutto come dicevo prima, in alcuni settori del mondo del lavoro queste forme di violenza, di intimidazione, di aggressioni comunque ci sono sempre state. L'uso del taser in questo caso è stato usato appunto da un'azienda privata, il rischio però, dato la concessione alle forze dell'ordine statali, è che venga usato anche da queste forze dell'ordine in altri contesti di rivendicazioni sindacali di diritti e dei lavoratori. Certo, potrebbe accadere, cioè non è una cosa che possiamo escludere, potrebbe accadere con le conseguenze, insomma, negative che noi conosciamo. Certo, se passiamo dalla repressione fisica o violenta nei confronti di chi legittimamente rivendica un proprio diritto, vuol dire che questo paese sta proprio messo male, profondamente messo male. Quindi da questo punto di vista fare anche una riflessione più alta rispetto a come la società civile, le forze democratiche e sociali più progressiste siano in grado di opporre un'idea proprio diversa di società.